Unilibera presenta Lucciole nelle tenebre. Bentornati a una nuova puntata di Lucciole nelle tenebre. Io sono Valentina. Eleonora. Ilaria. E il nostro immancabile tecnico e stoico tecnico. Ciao a tutti. Oggi ci spostiamo e continuiamo sempre la nostra avventura all'interno dei libri e della mafia e arriviamo ai giorni nostri. Sì, ai giorni nostri di cosa parliamo? Sempre di libri, romanzi? No, un po' purtroppo no, perché infatti non ci sono tantissima letteratura a riguardo, ma nei giorni nostri vediamo che c'è più una saggistica intorno alla mafia. Ora di autori ce ne sono tantissimi che ne parlano e noi abbiamo scelto di citarne quattro in particolare per avere proprio, che sono magari quelli più famosi, per dare un'inquadratura più... Sì, per fare una panoramica un po' sulla saggistica che c'è, che possa permettere di informarsi sul fenomeno delle varie mafie cercando di capirle in modo un po' generale. C'è più romanzature. E in particolar modo il primo autore di cui volevamo parlare è Nicola Gratteri, che è un autore molto importante perché è uno tra i pochi che ci parla a livello di saggistica di 'Ndrangheta. Gratteri nasce nella Locride ed è procuratore aggiunto del Tribunale di Reggio Calabria. Ovviamente ha scritto molti libri, sempre sul tema della 'Ndrangheta, di cui praticamente tutti sono scritti con Antonio Nicaso, che è un giornalista e scrittore ed è uno dei massimi esperti di 'Ndrangheta a livello internazionale. In particolar modo vogliamo parlare di due libri di Gratteri, che sono tra gli ultimi usciti: Fratelli di Sangue del 2009 e La Mala Pianta del 2010. Questi due libri sono particolarmente importanti perché sono quelli in cui Gratteri si impegna in modo particolare a spiegare quali siano le strutture su cui è basata la 'Ndrangheta. Ci parla delle 'ndrine, ci parla dei vari gradi che si possono raggiungere all'interno di questa organizzazione e ci parla di quali sono effettivamente gli ambiti in cui questa si è infiltrata, quali sono le sue fonti di guadagno principali, in particolar modo la droga, gli appalti, la prostituzione. E adesso volevamo, visto che purtroppo abbiamo sempre poco tempo, vi leggiamo un pezzo della Mala Pianta, che è l'ultima pagina del libro. Esiste la giustizia? Hans Kelsen, un grande giurista, diceva che il singolo non può raggiungere mai la felicità individuale perché l'unica felicità possibile è quella collettiva. La felicità sociale si chiama giustizia, che non è qualcosa di già dato, ma qualcosa che bisogna costruire giorno per giorno. Questa tensione verso la giustizia caratterizza tutta la vicenda umana. Senza questa idea di giustizia non può esistere la libertà, non può esistere la felicità, non può esistere il progresso. Chiudo con una riflessione. Ogni volta che torno in Calabria non c'è, per me, spettacolo più straziante e incomprensibile che vedere lo scempio che il potere pubblico e il potere criminale hanno fatto di questa terra stupenda. Dall'abusivismo edilizio alla contaminazione di tratti di mare con sostanze nocive. Se questi mammasantissimi, pieni di soldi, avessero avuto rispetto, loro che tanto farneticano di rispetto della propria casa, come imparano a fare facilmente persino i cani che non sporcano la propria cuccia, la Calabria, almeno oggi, sarebbe meno povera e più sicura. Invece tutto è usurpato. La lotta alla 'Ndrangheta, la vita di quei pochi magistrati come lei che la combattono, la presenza dello Stato, la speranza, i sogni. Non bisogna mai perdere la forza di combattere e resistere. Ce la possiamo ancora fare, soprattutto se cominciamo a mettere seriamente in discussione l'antimafia parolaia, quella del giorno dopo. È il momento di fare, come ci ricorda spesso Don Luigi Ciotti. Pizzica, un canotte pare. quando un cigno annusi più la stessa. Radighi dighi, radighi dighida della Grecia, degli paesi, mica incia la città. Senti nu cante, senti nauce, porti più di ieri sui clifime de oce. Radighi dighi, radighi dighi dan dan, cammina cammina dico cammina cammina ma cammina cammina che la mano non merisce. Cercando quel casello c'è io poi ci grigio, anche se la gente parla male solo fosse freccia. La coca la sta usando chi è seduto accanto a te ora in treno e l'ha presa per svegliarsi stamattina, o la ti sta al volante dell'autobus che ti porta a casa perché vuole fare gli straordinari senza sentire i crampi alla cervicale. Fosso di coca, chi ti è più vicino? Se non è tuo padre o tua madre, se non è tuo fratello, allora è tuo figlio. Se non è tuo figlio, è il tuo capo ufficio o la sua segretaria che tira solo il sabato per divertirsi. Se non è il tuo capo, è sua moglie che lo fa per lasciarsi andare. Usa coca? Il parroco da cui stai andando per chiedere se puoi cresimarti, perché devi battezzare tuo nipote ed è stupito che tu non l'abbia ancora preso, quel sacramento. È il politico che ti ha promesso una licenza commerciale, quello che hai mandato in Parlamento con i voti tuoi e della tua famiglia ed è sempre nervoso. È il professore che ti ha cacciato da un esame alla prima esitazione. O è l'oncologo da cui stai andando a parlare, ti hanno detto essere il migliore e speri ti possa salvare. Lui quando tira si sente onnipotente. La usa il portiere del tuo palazzo. Ma se non la usa lui, allora la sta usando la professoressa che dà ripetizione a tuo figlio, l'insegnante di piano di tuo nipote, il costumista della compagnia di teatro che andrai a vedere stasera, il veterinario che cura il tuo gatto, il sindaco da cui sei andato a cena, il costruttore della casa in cui vivi, lo scrittore che leggi prima di dormire, la giornalista che ascolterai al telegiornale. Ma se, pensandoci bene, ritieni che nessuna di queste persone possa tirare di cocaina? O sei incapace di vedere o stai mentendo, oppure, semplicemente, la persona che ne fa uso sei tu. L'avete riconosciuto? Questo è un piccolo estratto della prima parte del nuovo romanzo Inchiesta di Saviano, pubblicato nel 2013. Qui vediamo che Saviano, non c'è bisogno che stiamo qui a parlare di Saviano, penso tutti conoscano Saviano. Sì, ormai direi che... Tutti conoscono Saviano, ok. Come in Gomorra, qui lui cerca di analizzare i fenomeni criminali della quale si occupa sempre e costantemente, però appunto cercando di utilizzare uno stile letterario che però talvolta ricalca anche una certa ricerca sociologica, storica, economica. Qui non indaga più però la realtà italiana, non indaga più sulla camorra, ma qui vediamo che lui ci parla del mercato internazionale, soprattutto del mercato internazionale di cocaina. Vediamo, si capisce benissimo, abbiamo letto questo pezzo e mette un'ansia addosso assurda. La copertina stessa, c'è un'immagine appunto della coca, il titolo stesso 000 vuole in qualche modo sarcasticamente riprendere la nota farina 00, lui ci aggiunge semplicemente uno 0. E qui appunto lui ci parla di quella che lui chiama il petrolio bianco, la nuova ricchezza sulla quale appunto la mafia lucra, facendoci e passando al vaglio nei vari capitoli come si sono evoluti nel tempo i cartelli sudamericani. Infatti ci parla soprattutto, qui abbiamo detto appunto, non ci parla più dell'Italia, non ci parla più della camorra, i modi violenti con la quale essa agisce, i rapporti con le istituzioni locali e come appunto arriva anche a noi talvolta. Però vediamo che è un libro molto molto molto ridondante, un libro che mira soprattutto all'impatto, al farci rimanere con la bocca aperta. È un libro che va poco al nocciolo della questione. Quindi insomma, ti è piaciuto sì o no? Non moltissimo. Troppo enfatizzato, mira molto appunto alla sorpresa, ma in realtà c'è un punto ma non c'è un... E quindi cosa si fa? Non lo so. Non mi è piaciuto molto. Va bene, adesso parliamo di qualche altro autore, visto che ne abbiamo annunciati quattro. Quali sono gli altri? Beh, gli altri due sono, uno è sicuramente Nando Dalla Chiesa, che ha fatto, che è professore di sociologia della criminalità organizzata all'Università degli Studi di Milano e ha fatto parecchi libri. Beh, aspetta, chi è Nando Dalla Chiesa? Lo sapranno tutti, però diciamolo. È il figlio di Carlo Alberto Dalla Chiesa, che è un generale ucciso dalla mafia nel 1982. E tra i tanti libri che ha scritto, non ve li stiamo ad elencare tutti perché sennò faremmo notte, ha scritto due particolari libri che si concentrano un po' sulle persone che hanno combattuto la mafia, tra cui uno più recente del 2006, Le Ribelli, che sono storie di donne che appunto che hanno combattuto la mafia per amore, tra cui c'è la storia di Rita Borsellino, Rita Atria e molte altre, e uno molto più, un po' più datato, del 1992, scusate, che si chiama appunto Il giudice ragazzino e racconta la storia di Rosario Livatino, un giudice ucciso dalla mafia nel 1990. Com'è che si chiama Il giudice ragazzino? Si chiama Il giudice ragazzino perché appunto risale da una definizione data da Francesco Cossiga, che aveva definito i giudici, i giovani giudici magistrati che si occupavano appunto di mafia, giudici ragazzini. Sempre una persona simpatica. Già. Ma passiamo subito a un altro attore a cui noi siamo molto affezionati, che si chiama appunto Isaia Sales, che abbiamo intervistato qua in radio, quindi siamo molto legati a lui. Ecco, ciao. Che nonché, oltre al nostro affetto caloroso, è comunque, resta uno dei maggiori esperti di camorra in Italia. Infatti ha fatto parecchi libri sul tema, tra cui La camorra delle camorre del 1988 e Napoli non è Berlino del 2012, il libro più recente. E poi si è occupato, oltre alla camorra, anche del legame tra la religione e la mafia, la chiesa e la mafia, di cui appunto abbiamo un libro del 2010, I preti e i mafiosi, e Una voce dell'Atlante delle mafie su appunto chiesa e mafia. Ma ora un po' di musica con A finanziaria dei 99 Posse. Hanno fatto finanziaria, ci avemmo sacrifica, loro sanno accapputata e noi mo l'hanno aiuta. So 40 finanziaria che noi ci sacrificam, e ti dico vai sicuro che non è fornuto ca. sigara se fa male con qua sorto curamma. Perché c'è maricina e non stato simbolo. Non si buono si non tiene rinta sacco bronca e no. L'hanno chiuso rinta c'è la poverella De Lorenzo. Non sta buona e dimagrita, nessuno che ho pensa. Capati se mangiava con fe morti in despitale. E se non ne frega testa come prospero gallinare. Chi ha avuto, avuto, avuto, chiara tarata vita. Scusami c'ho passata si menava la paisa. Non c'è stanno che pensione, non c'è sta manca fatica. E di conseguenza non c'è stanno mi resciava va. Bentornati in studio e adesso un po' di annunci prima della rubrica Buffier. Cominciamo con in occasione del futuro Libero Aduno che si terrà dal 4 al 5 aprile, che è la nostra solita festa di ogni anno. Ci saranno tre appuntamenti e tanto ve ne annuncio due, che sono il 4 marzo al Cucchiaio d'Oro un aperitivo di autofinanziamento e il 17 marzo al Santo Bevitore un altro aperitivo di autofinanziamento. E in più non dimenticate, se volete partecipare come musicisti e cantanti, di partecipare al contest che si terrà il 12-19 marzo presso l'Arteria e l'iscrizione scade il 28 febbraio, quindi affrettatevi. Oggi nella nostra rubrica vogliamo occuparci di musica e soprattutto vogliamo occuparci, penso, di forse il più grande cantatore italiano che ci sia mai stato, ovvero De André. Parliamo di De André perché 3 giorni fa, il 18 febbraio, avrebbe compiuto 74 anni e quindi noi vogliamo ricordarlo, anche se non c'è bisogno di stare qui a parlare, un po' perché lo conosciamo tutti, un po' perché non abbiamo tempo. Quindi sì, quindi Ele, ti chiedo subito, qual è la canzone, è difficile, ma è una canzone preferita di De André? Beh, tra le canzoni preferite sono tipo tutte, quindi ne sceglierò una in particolare che è un blasfemo, che è particolare perché fa parte di un album bellissimo, Non al denaro, né all'amore, né al cielo, che è ripreso da De André dall'antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, che è un libro in cui praticamente si parla delle biografie di morti, sono poesie che recitano i morti di un paesino. E lo stesso è quello che fa De André con i suoi personaggi. Vale, invece tu cosa ti piace di De André? Ma io, visto che comunque siamo una rubrica un po' letteraria, vorrei pubblicizzare l'unico romanzo di De André, che si chiama Un destino ridicolo, che è appunto un libro che ha scritto con Alessandro Gennari e parla un po', sono un po' una raccolta di racconti dei personaggi poi tipici di De André, cioè gli umili, quindi si tratta di vagabondi, prostitute, per i vicoli e i caruggi di Genova. Siamo giunti alla fine e a chiudere lancio una delle mie canzoni preferite invece di De André, che è Cresa de Ma, tutta in dialetto genovese, infatti lui fa proprio un CD apposito, tutto cantato in dialetto genovese. Oggi ci siamo dedicati ai dialetti e adesso andiamo con Cresa de Ma, vi salutiamo, ciao! Ciao a tutti! Ciao! Ombre de muri, muri de maine, donde ne veni, dove le cane, densi tu du vali, a se mostrani, e a neta na punto, cotelo agua, e a monta la zeuga resto dio, o diavolo in se, o sega fetonio, Ne shortimo da uma pesci vai o se da odria a fontana di cumbi tacca de pria e andare e andare e andare io e Intacca de pria chi che saia, intacca d'udria cu nulla mai na. Gente deliga facce de mandila, vuoi che tu lo assu preferisci la. Figge de famiglia o du de bon, che ti pia mia le senza o gondun. E andale, e andale. Se vê, consegue daia, você dá bem, você dá manja. Fritia de pinhe, janco de portofim, cervele de pé, tu mesmo vim. Lasagne da filha, ai quatro tuque, batido em negro doce, de lebre de cu. E anda, meu, e anda. Encha a barca do vinho e naveguemos xisquete, emigrante do rio, muito entiede. Fim com a tincrechada, poeiro recante, redigane, fenia de fite. Bacanda corda, marcelego e de sangue, ne liga e ne porta, antena cruza de mar. E anda, meu, e anda, meu, e anda. Andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai, andai,